L'orchestra senza spine compie 10 anni e questa sera in piazza Santo Stefano in modo informale festeggia come aveva iniziato le proprie attività 10 anni fa. Ne parliamo con Tommaso Ussardi che è al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, è un bel traguardo intanto 10 anni. Assolutamente sì, per alcuni possono sembrare anche pochi, ma per Senza Spine sono tantissimi, pensando che abbiamo iniziato questa avventura così da un gruppo di amici che avevano voglia di riportare la musica classica al centro, e proprio con Matteo Rubini, questo mio caro amico pianista bravissimo che è finito il conservatorio, è andato in una sorta di buca depressiva, perché finito il conservatorio uno in qualche modo conclude il percorso di studio e non sa che cosa ne sarà del suo futuro. E proprio con quel concerto di Liszt fu il motivo dell'inizio dell'avventura di Senza Spine, proprio per cercare di dare un'opportunità a Matteo Rubini, il pianista, che proprio stasera, dopo 10 anni, ripeterà con noi quella fantastica esperienza che facemmo appunto 10 anni fa. Come sono stati questi 10 anni? Sono stati 10 anni di emozioni fortissime, quasi un turbine, di una spinta verso qualcosa che ancora non conosciamo. Perché appunto siamo partiti abbastanza inconsapevoli di quello che sarebbe stato il percorso di Senza Spine. Volevamo semplicemente, come dicevo, rendere la musica classica accessibile a 360 gradi, quindi cercando di cogliere tutti quelli che sono stereotipi e muri che allontanano le persone, ma anche i musicisti stessi dal poter fare esperienza e vivere e condividere la musica classica. E quindi ogni giorno, ogni mese che è passato è stato un andare avanti in questa direzione, e tutti i passi e le conquiste insomma fatte sono in linea in qualche modo, è come se fosse una collana che si sta creando. Pensiamo appunto al 2014, l'assegnazione dell'ex mercato San Donato, l'apertura nel 2015, le stagioni al Teatro Duse, l'apertura a livello regionale, poi nazionale, la vincita dei premi come l'ultimo, ad esempio il premio Appiati, il premio della critica italiana per la musica classica, un premio importantissimo, che per la prima volta nella storia arriva a un'orchestra che è nata dal basso come Senza Spine, quindi che unisce in qualche modo appunto l'attivismo e il movimento dal basso con l'alta qualità e il cercare di fare sempre meglio. E questo cortocircuito in qualche modo è quella cifra che contraddistingue Senza Spine e che lascia anche un po' perplessi, perché non si sa più da che parte stare, no? Dalla parte dell'accademismo o dalla parte della strada. Beh, siete bravissimi a coniugare queste due cose in un modo unico, forse. Sì, speriamo che sia ad esempio, speriamo che diventi anche un modello, perché effettivamente funziona, le persone si avvicinano, la musica è di tutti e per tutti e per tutte, e deve essere assolutamente aperta. E forse in questi anni si sono proprio costruiti dei muri, anche magari inconsapevolmente, però vanno abbattuti, vanno superati, e credo che questa possa essere una strada. Ecco, l'hai citato tu, quindi mi sento legittimato a chiedertelo, hai parlato del mercato San Donato, ora è al centro di un progetto di riqualificazione, per una nuova sede ci sono speranze? Assolutamente ci devono essere speranze, infatti insomma siamo tranquilli da questo punto di vista, sappiamo che l'amministrazione per quanto magari negli ultimi mesi sia uscita una comunicazione un po' confusa e che ha allarmato un po' tutta la città, sappiamo che tengono molto al progetto e ai servizi che Senza Spine offre al quartiere e alla città, quindi sappiamo che prima di tutto si penserà a dare continuità a questi servizi, e quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Poi su quella che sarà la sede nel momento in cui il mercato suonato non ci sarà più, se così sarà, ecco, ancora non abbiamo certezze, però posso dire che ecco, rispetto a mesi fa dormiamo sogni più tranquilli. Ecco. Allora veniamo a stasera, cosa ci dobbiamo aspettare? Stasera, come dicevi, è un concerto assolutamente informale ed è quello che ci piace di più, perché appunto anche delle poltrone, dei teatri, questi luoghi comuni, che in realtà i teatri sono luoghi bellissimi ma spesso allontanano, ecco che cerchiamo di togliere tutti questi ostacoli e ci troviamo in piazza Santo Stefano con l'orchestra senza palco, quindi davanti alla chiesa, e una platea che si autoformerà, ognuno con i propri cuscini, sedie, insomma ognuno si porterà la seduta che ritiene più comoda, e sarà un concerto alla luce del tramonto, quindi no elettricità perché siamo senza spine, quindi anche questo insomma è un messaggio mezzo, è un messaggio importante e sarà un concerto molto, molto bello, molto forte anche dal punto di vista emotivo, perché inizierà con l'overture del Barbiere di Siviglia, che fu l'overture che suonammo 10 anni fa in Piazza Verdi, sotto il portico di Piazza Verdi di fronte al Comunale, e quindi quello sarà il primo gancio di ritorno a 10 anni fa. Poi, come dicevo prima, il concerto di Liszt numero 1 con Matteo Rubini, concerto che fu quella miccia che innescò la storia di Senza Spine, e quindi ascoltare un concerto di Liszt in Piazza Santo Stefano in un contesto così informale è un'esperienza unica e credo che non sia mai stato fatto, e quindi già questo vale la pena di muoversi e arrivare in Piazza Santo Stefano. E poi ci avverrà un'altra magia, l'orchestra Senza Spine Junior, che, come insomma magari molti sanno, Senza Spine è anche una scuola di musica dalla quale stanno fiorendo giovani musicisti e musiciste che fanno parte dell'orchestra Senza Spine Junior, e per la prima volta si uniranno ai grandi, tra virgolette, quindi suoneremo insieme, sarà un'orchestra gigantesca ed eseguiremo il primo movimento dell'Incompiuta di Schubert e poi degli estratti dalla Carmen di Bizet, e poi gran finale con il coro degli Stonati, che è uno dei nostri fiori all'occhiello per quanto riguarda, ecco, l'inclusività, e sarà un momento di festa per tutti e tutte coloro che vorranno partecipare. Allora Tommaso, io ti ringrazio e ricordo l'appuntamento questa sera alle 20 in Piazza Santo Stefano per i 10 anni dell'Orchestra Senza Spine. Grazie mille. Evviva. Grazie a voi.